Verso la fine della pagina di Gemara 14a, Yudale Damudalef, la Gemara torna a commentare la Mishnah e nello specifico il brano in cui la Mishnah ha spiegato quali sono esattamente i brani per capire quali sono i punti che quando si dice che si può interrompere tra un brano e l'altro e non in mezzo al brano, quali sono esattamente i punti in cui finisce un brano e comincia un altro. La Mishnah ha spiegato questo. Ora la Gemara dice, per ciò che riguarda uno di questi brani nello specifico, Amar Rabbi Avau, Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Avau a nome di Rabbi Yochanan, Halakha che Rabbi Yehuda De Amar, l'Alakha seguirebbe Rabbi Yehuda, il quale ha detto, cosa ha detto Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda ha detto, ben Elokechem le emet ve'yatziv lo yafsik. Come dicevamo prima, prima nel senso dopo la tefila abbiamo fatto questo piccolo intervento, tra la parola Elokechem, cioè l'ultima parola del brano di Vayomer, dell'ultimo brano dello Shema, e Emet Viyatziv, che è il brano successivo, l'inizio della prima Berakha che segue lo Shema, che conclude con Gaal Israel, ok? Tra Elokechem e Emet Viyatziv, lo Yafsik, non si interrompa. Così disse Rabbi Avau a nome di Rabbi Yochanan, constatando che la Halakha sia stata fissata, così come insegnò Rabbi Yehuda, in questo riguardo, che tra queste due parole è considerato un luogo in cui, nonostante conclude un brano e inizia un altro, non è un punto in cui si può interrompere, a differenza degli altri brani che sono stati elencati nella Mishnah, che nella Mishnah noi abbiamo visto quali sono esattamente i punti di interruzione. E uno di questi brani era la conclusione di Vayomer, l'inizio di Emet Viyatziv. Ma c'è stata l'opinione di Rabbi Yehuda che dissentiva e diceva Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice no, io sono d'accordo con tutti gli altri punti che avete indicato sono la fine e l'inizio di un altro brano, ma in questo punto qui, anche se è la conclusione di un brano e si inizia un altro, comunque non si interrompe. Ora la domanda è, per quale motivo? Perché questo brano è diverso dagli altri, dove è possibile interrompere tra un brano e l'altro e qui comunque non è possibile? La Gemara dice, Amar Rabbi Avau, Amar Rabbi Yochanan, disse sempre Rabbi Avau, nome di Rabbi Yochanan, spiegò il motivo, la motivazione. Dichtiv, Maita Ame di Rabbi Yehuda. Qual è la motivazione per la quale Rabbi Yehuda dice questo? E la risposta è Dichtiv, giriamo la pagina, 14b. Dichtiv, poiché è scritto nel profeta Yirmiyahu, Geremia, esiste un versetto in cui dice Vashem Elohim Emet. E il Signore Dio rappresenta verità, così come il profeta lega il nome di Hashem, Hashem Elohim, con la parola Emet, anche noi leghiamo le due parole senza interrompere con qualsiasi interruzione tra Elokechem, nel caso dello Shema, e Emet. E il Rambam Maimonide spiega che il Navi, il profeta, ci sta insegnando che non c'è una verità come la sua verità. En Emet che amitato. Solo Hashem Elohim Emet. Ecco perché si accosta la parola Emet all'Hashem Elohim per dire la verità sua è una verità che non è possibile, è una verità assoluta che non è eguagliabile da un'altra verità, tipo di verità. Perdonami, ma sì. Gli Emet, no? Mm-hmm. Ce ne sono quattro dopo, giusto? Sì. Quindi vuol dire che quattro brani iniziano con la parola verità? No. O sono collegati? Il brano inizia con la parola Emet e nel corso del brano ricorre la parola Emet per sottolineare e ampliare il concetto dove si esprime lo stesso Emet che è stato menzionato, il primo Emet. Non sono nuovi brani. Sì. All'interno del brano si ricorda di nuovo la parola Emet. Ah, ok, ok. Il brano inizia con Emet, conclude con la Berakha Gal Israel. Ah, è tutto uno. È tutto uno. Ah, okay. È la Berakha che è successiva allo Shema. Ci sono quattro differenti. No. Okay, tutto uno. Ok? Allora, fin qui ci siamo. Ora la Gemara pone una domanda. Quando la persona ha detto Elokechem Emet, perché non può interrompere tra uno e l'altro, vero? Quando poi continua con la Berakha di Veyatziv, e nel caso in cui la persona avesse interrotto, dopo ha detto Emet, cioè c'è qualcuno che lo saluta, e se qualcuno ti saluta, tu puoi rispondere al saluto, abbiamo detto, tra un brano e l'altro, vero? Per esempio per Kavod, per rispetto, tra un brano e l'altro. Allora lui sta concludendo lo Shema, e non vuole interrompere giustamente tra Elokechem e Emet, allora dice Hashem Elokechem Emet, buongiorno, e risponde al saluto, dopo che ha detto Emet. Ok? Ora però si crea un problema. Perché? Visto che la parola Emet è la prima parola del brano successivo, comunque, allora la domanda è se lui deve riprendere quel brano dalla parola Emet o se deve proseguire direttamente dalla parola Veyatziv. Perché avrebbe interrotto il brano... Perché ha interrotto adesso in realtà in mezzo al brano stesso, esattamente. Quindi, giustamente, ha accostato la parola Emet alla parola Elokechem, e lì non ha interrotto, però avendo interrotto dopo Emet, quindi ha interrotto il brano stesso, in mezzo al brano, Be'emza Hapere, come dice la Mishnah, allora a quel punto ci si chiede la domanda, ci si pone se è necessario ripetere la parola Emet per riprendere da capo il brano, oppure è sufficiente proseguire nella lettura con Veyatziv anche se si è interrotto. Questa è la domanda che la Gemara si pone in questo momento. E la domanda è espressa nelle seguenti parole. Chozer ve'omer Emet, se appunto nel caso descritto la persona dovesse tornare, Chozer, tornare indietro, ve'omer Emet, a dire di nuovo la parola Emet perché ha interrotto, oppure o eino chozer ve'omer Emet, oppure invece non torna a ripetere la parola Emet. Ok? Su questa domanda hanno discusso due Amoraim, due maestri della Gemara. Cosa è la discussione? Marabi Abbao Amarabi Yohanan. Torniamo a citare di nuovo il maestro che già due volte oggi abbiamo citato. Rabbi Avau, a nome di Rabbi Yohanan, dice Chozer ve'omer Emet. In un caso di questo genere deve tornare a dire Emet, perché secondo lui bisogna, avendo interrotto in mezzo al brano, bisogna riprenderlo da capo e dire tutto il brano senza interruzione. Quindi di nuovo ripete la parola Emet e continua Veyatziv, eccetera, eccetera, finché senza pause, senza interrompere. Mentre invece Rabba, non come? No, assolutamente, quello è un altro brano. Allora, l'idea di non interrompere tra Hashem Elokechem e Met l'ha comunque mantenuta, quindi su quella non c'è stata interruzione. L'interruzione, il problema qui è nato perché l'interruzione è stato successivo alla parola Emet. Quindi ha fatto bene ad accostare Emet alla Hashem Elokechem, però ha interrotto tra Emet e la parola successiva, che in realtà non è un brano, è lo stesso brano, è in mezzo al brano, non è un brano nuovo. Allora, secondo Rabbi Avau, a nome di Rabbi Yochanan, deve ripetere la parola Emet, solo Emet, perché quello è l'inizio di questo nuovo brano, e continuare senza interruzioni. Mentre invece, secondo Rabba Amar, Eino chozer ve'omer Emet, non torna a ripetere la parola Emet. E la Gemara illustra la cosa con un aneddoto accaduto proprio con Rabba. La Gemara dice Hahu, quello lì, è un modo di dire c'era una persona. La Gemara dice Hahu, quello de Nachet, che scese, Kame de Rabba, scese davanti a Rabba. Cosa vuol dire scese davanti a Rabba? Allora questo è un codice, bisogna... Scese vuol dire andò in Teva, andò ad officiare la Tefilah. Perché scese? Perché si usava che la Teva sia più bassa rispetto al resto delle persone che pregano, del piano in cui si prega. È un po' più... Al contrario del... C'era la rampa, no? No, questo è il Misbeach, non è una Teva. Questo è l'altare. Sì. Noi parliamo del... Dove sale chi officia, chi prega? La Teva? Così, da qualche parte. Oh, allora, c'era un'usanza antica che la Teva, ovvero colui che pregava davanti all'Amud, cioè per il pubblico, era più basso, perché c'è scritto, ci si appoggia su un salmo che c'è scritto Shira Ma'alot Mimma Amakim Keraticha. Hakadosh Baruch Hu, ti chiamo dalle profondità. La nostra tefilah viene a lui dalla nostra profondità, cioè dalle profondità. E allora per simboleggiare questa cosa, si costruiva proprio così. Se voi andate a Praga, il tempio antico di Praga del circa del 1200, che è ancora oggi in buone condizioni, potete vedere che effettivamente è così in quel tempio, che si scende un po' per pregare in Teva, diciamo, per, non la Teva dove si legge il Sefer, si usa in alcuni posti che non è lo stesso, dove si officia la Tefilah è diverso da dove si legge il Sefer. In ogni caso, il termine Nachet è sceso, viene da qui. La persona è scesa davanti a Rabbah, cioè nel luogo in cui Rabbah pregava c'era uno che stava officiando. Ok? Shemae Rabbah sentì questa persona che diceva De Amar Emet Emet, che ripeteva due volte la parola Emet. Terei Zimne, due volte. Tre vuol dire due. Amar Rabbah, disse Rabbah, reagendo al comportamento di questa persona, Kol emet amet tefase lehai. Questo qui, lehai, che vuol dire questo qui, tutta la emet lo ha acchiappato. Cioè, come è stato preso da questa emet, ma l'ha detto in maniera non positiva. Cioè, si è preso una strana, un strano entusiasmo a ripetere così la parola emet. Perché quando tu ripeti la parola emet, tu diminuisci l'importanza della parola, perché emet è una verità. Dal momento che lo ripeti, è come esiste, credo abbiamo studiato, la halakha di non ripetere la parola shema. Dice shema, shema. C'è scritto meshatkinoto, lo si fa tacere. Perché non è, sembra, è strano e dà pensiero ad altre cose. Emet, emet, non è giusto dirlo, secondo Rabbah. Non ha senso. Non è un senso rafforzativo, anzi è un senso contrario. Rende meno importante l'esclusività di quel emet. Allora, stiamo parlando qui ovviamente che lui ha detto Hashem Elokechem emet, emet, senza ripetere di nuovo Hashem Elokechem. Perché? In realtà, oggi noi lo facciamo, l'officiante ripete Hashem Elokechem Emet, ok? Ma non Emet Emet. Questo è questa è la ripetizione di cui Rabbah parla e dice che non è d'accordo che si faccia. E quindi Rabbah è dell'opinione che anche se una persona dovesse avere interrotto tra Emet e la parola Veyatziv, la successiva parola dello stesso brano, anche se siamo in un unico brano e non tra un brano e l'altro, per lui non si ripete Emet, si continua, semplicemente si prosegue recitando Veyatziv. Invece la prima opinione che abbiamo citato, che è quella di Rabbi Yochanan, citato da Rabbi Abau, invece se avesse interrotto, ripete Emet Veyatziv per non rendere incompleto, diciamo, il brano intero. Va bene? Molto bene. Comunque prevale, la regola è che non si ripete. La regola è effettivamente che senza un'interruzione in mezzo non si ripete. Sì. Beh, è difficile che ti interrompa. Tra quei due brani, sì, no, sì, è molto difficile. Non è molto comune, non però, è molto anche una questione di abitudine. Sì. Non tutti sono abituati. Posso dire una cosa? Prego, signor William, dica. Perché non si finisce Ani, Ani, Hashem, Elohim e basta, si ferma qua. Mm-hmm. Poi lo Emet lo passi a Yatziv. Quello che abbiamo spiegato prima. No. Sì, perché è scritto nell'Irmiyahu Vashem Elohim Emet in un unico versetto. Vabbè, e noi vogliamo ricordare questo, che vogliamo accostare la verità direttamente a Hashem Elokechem per indicare che la verità è una verità di tipo divino che è assoluta. Dopo si ripete Emet? No, non si ripete. Se si ripete Emet, non si ripete Emet. Cadiamo nella diminuzione. Infatti abbiamo detto non si ripete. Giusto? Sì. Come si deve? Aspetta, perché finisce lo Shema e poi ripetiamo il verso per arrivare a 248, no? Ripetiamo Hashem, Ani, Hashem, Hashem Elokechem. Emet. Ripetiamo Hashem Elokechem, ma non ripetiamo Emet due volte. Ripetere tu due concludi volte. Ani, Hashem Elokechem, Hashem Elokechem, Emet. Sì. Così, sì, non ripetendo. Dice il primo. Forse sì, dice sì, il primo. Sì, sì, sì, sì, così, giusto. Quello è il primo del pubblico. È giusto. No, no, allora no. Una... Sì, così. No, no, è giusto questo, ma certo. È giusto. No, facciamo anche a me sembrava anche a me no, che facessimo così, però se lo ripeti in testa è come dice lui. Ok, signori, comunque la parola emet si dice una volta solo. Sì. Allora, per non fare confusione senza emet. Per non fare confusione la seconda volta proseguiamo. Però lo dico, mi sa pure io. Mi sa che io lo dico, adesso sto qui. Ani Hashem Elokechem, Emet. E la ripetizione è Hashem Elokechem Emet. Però qua c'è scritto l'usanza di loro. Di loro. Emet. E poi Emet. Ecco perché. Cioè, no, no, perché qui c'è scritto un'altra cosa. Qui c'è scritto l'officiante ripete, secondo l'usanza, che chi non prega con il Minyan non ripete nulla, solamente aggiunge all'inizio che è il Melech Neeman. Non è una ripetizione di Emet. Ok, quindi se io prego da solo, dico solo questo e non dico questo. Esatto. E se invece in non sei abituato a dire il Melech Neeman? Se sei abituato a dire che è il Melech Neeman quando preghi no, da solo? Se non sei abituato. Se non sei abituato a dirlo, allora concludi lo Shema ripetendo, cioè Ani Hashem Elokechem, Hashem Elokechem Emet. Però okay, Emet sempre una volta sola. Ok, ok. Ok, ora possiamo proseguire. Amar Rav Yosef, Rav Yosef disse, devi ascoltare William, il nome tuo, Yosef. Amar Rav Yosef, disse Rav Yosef, Kama ma'alya ha-shemateta. Quanto è importante il seguente insegnamento. Qual è l'insegnamento? Techiata Rav Shmuel bar Yehuda. Quando giunse qui in Babilonia, da Eretz Israel, Rav Shmuel, figlio di Yehuda, Amar disse Rav Shmuel, quando arrivò da Eretz Israel, ci disse la seguente cosa. Amrebbe Marava, dicono all'Ovest, cioè un modo di dire Eretz Israel, all'Ovest di Babilonia, in Eretz Israel, dicono, insegnano di lì la seguente cosa. Arvit, per ciò che riguarda la tefilà di Arvit, quando loro leggono la tefilà di Arvit e all'interno di Arvit si dice lo Shema chiaramente, quando arrivano al terzo brano dello Shema, che è il brano di Vayomer, loro non recitano tutto il brano, loro dicono la seguente cosa. Dabber el Bene Israel, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Dabber el Bene Israel. Vea Marta Alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Basta. Saltano tutta la parte in mezzo, perché tutta la parte in mezzo è riguardante la mitzvah degli tzitzit. E la mitzvah dei tzitzit è obbligatoria solamente di giorno e non di notte. E quindi saltano tutta la parte, diciamo, tutta la carne della parashah e dicono solo prime parole e ultime parole. Da bere ne serve a Marta Alehem, E qui si interrompe in mezzo al versetto, cosa abbastanza strana che commenteremo. Ani Hashem Elokechem Emet. Così commentò Rav Yosef. Rav Yosef disse: questa è una bellissima cosa, un grande insegnamento. Allora il suo allievo disse: Amarle Abayé. Abayé gli disse: mai ma aiuta, qual è la grande cosa di questo insegnamento? In teoria non solo non è una grande cosa, ma secondo quanto abbiamo imparato potrebbe addirittura essere sbagliata questa cosa. Vediamo perché. Disse Abayé, adesso spiega ciò che dice: mai ma aiuta, qual è la grandezza? Veha Amar Rav Kahana Amar Rav. Eppure ha detto Rav Kahana a nome di Rav. Cosa ha detto? Ha detto Lo Yathil. Quando si prega Arvit e c'è il brano di Vayomer, Lo Yathil non inizia a recitare il brano di Vayomer, recita solo due brani. Shema Israel ve'ahavta et Hashem Elokecha e ve'ayim Shamoa. E non recitare Lo Yathil, non iniziare neanche di recitare Vayomer. Però se capita che per abitudine ha iniziato, Veim hitchil, se invece ha iniziato e ha detto Vayomer Hashem Moshe Lemor, allora Gomer, allora lo deve concludere, allora sarà obbligato a concludere tutto il brano. Se questo è l'insegnamento che abbiamo imparato, allora come è possibile che in Eretz Israel usano addirittura appositamente iniziare, appositamente saltare quasi tutto il brano e concludere con Ani Hashem Elokechem Emet? In teoria, qual è la grande cosa? Noi abbiamo imparato che non si può fare questo. Per ciò che riguarda i tzitzit, ok, non si dice tutto il Vayomer, ma com'è possibile dirlo e non concluderlo? Tutto. Allora, Gemara adesso suggerisce una soluzione che poi però sarà rifiutata. Vediamo. Qual è la soluzione? Chi teima. Se tu mi volessi dire Ve amarta alehem la have hatchala. Le parole ve amarta alehem, che Rav Shmuel ha detto, dicevano in Eretz Israele e poi saltavano il resto del brano, non sono considerate queste parole, lo have hatchala, non sono considerate un inizio. Iniziare il brano vuol dire proseguire ulteriormente. Non fino al fine, iniziare, abbiamo detto. Sì, sì. Non è sufficiente dire Ve Amarta Alehem per essere considerato che hai iniziato il brano. Ora vediamo in che senso si intende dire questo. Non è sufficiente queste parole non sono sufficienti per essere considerato che abbiamo iniziato il brano. E quindi anche se saltiamo fino alla fine non siamo obbligati quindi a dirla tutta, perché non rientra in quanto ha detto Rav. Rav ha detto se tu inizi devi concludere. Però questo non è considerato ancora un inizio. Se tu hai detto una parola non è ancora considerato inizio. Addirittura se hai detto Vayomer Hashem el Moshe Lemor Daber ebne serva Marta Alehem, hai concluso lì, non hai ancora iniziato l'indicazione stessa. Cosa vuol dire Ve Amarta Alehem? Parla ai figli di Israele e di loro. Non sei andato oltre. Cosa? Cosa di loro. Quindi questo non è considerato un inizio. Di conseguenza non sei obbligato a concludere, sei obbligato a concludere se apri l'argomento. Qui ancora l'argomento non è stato aperto, di conseguenza ancora non rientriamo in questo obbligo. Così la Gemara vorrebbe dire, Hiteima, se tu volessi dire questo, non lo puoi dire, perché? Ha Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak Amar Rav. Disse Rav Shmuel, un altro Rav Shmuel, figlio di Yitzchak, però sempre a nome di Rav, se una persona legge fino a Daber el Bene Israel, cioè Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, parlò il Signore con Moshe dicendo Daber, parla ai figli di Israel. Fino a lì ancora non abbiamo aperto l'argomento. La Ave Hatchala, quindi fino a qui non è un inizio, ok? Però se prosegue e dice Ve Amarta Alehem e dirai loro, questa è già l'apertura del discorso. Sì, si è preso un seguito. Ma Sì, presume un seguito, anche se non ha iniziato proprio a parlare di tzitzit, però ha già detto adesso di loro, così così, di loro, questo è già Havè Hathalà, disse Rav, questo è già un inizio del brano, e quindi, dette queste due parole, Ve'amartà Alehem, sei obbligato a concludere tutto il brano. Allora torniamo alla perplessità. Se in Eretz Israel, come testimoniava Rashmuel Bar Yudà, che era venuto giunto in Babilonia da lì, e diceva, lì dicono all'ovest, davvero il Bene Israel ve'amartà Alehem, e concludono subito Ani Hashem Elokechem Emet, come fanno? Se hanno detto ve'amartà Alehem, vuol dire che hanno iniziato il brano. Rav ha insegnato che quando si inizia un brano, bisogna concluderlo. Nello specifico riguardo il Vayomer nell'Arvit, che anche se non si applica alla mitzvah dei tzitzit, però se hai iniziato lo devi concludere per obbligo. Come fanno quindi loro a non concludere? A saltare Dave Amartà Lehem fino a Niashem Lokechem. La Gemara dice, evidentemente, Amar Rav Papa, disse Rav Papa, Kassavre Bemarava. I maestri di Eretz Israel sono dell'opinione savre, sono dell'opinione che ve'amartà alehem nami, anche le parole ve'amartà alehem per loro lo haviatchala, per loro non è considerato un inizio, finché non dice proprio l'inizio dell'indicazione stessa che è ve'asu lahem tzitzit. Se lui ancora non ha detto le parole ve'asu lahem tzitzit, Adde amarve a sulem tzitzit, finché non dice queste parole, non è considerato che ha iniziato l'indicazione vera e propria che è comunicata in questo brano, e quindi non deve per forza concludere, può saltare, non deve finire tutto il brano. Visto che in Eretz Israel seguivano questa opinione, di conseguenza potevano dire anche ve'amarta alehem e poi saltare fino alla fine ani Hashem Elokechem Emet. Allora ecco che arriva la cosa interessante. Amar Abaye. Disse Abaye. Abaye era lo stesso che ha sollevato il problema. Ha detto cosa è questa grande cosa? Se si interrompono e poi non concludono non si può fare. Ora abbiamo chiarito che c'è un'opinione diversa di quando è considerata la parte che è l'inizio dell'indicazione. Quindi discussione tra maestri di Eretz Israel e maestri di Babilonia. Ora Abaye propone una sorta di compromesso. Amar Abaye, disse Abaye, il Kach, perciò, Anan, quanto ci riguarda noi, vuol dire Anan, vuol dire noi, Anachnu. Atchule Matrelinan. Per iniziare, iniziamo. Iniziamo la terza parasha, anche di notte. Diciamo, Vayomer Hashem el Moshe le morda bere bnei Israel ve'amartà alehem. Perché? Tekam matchele be'marava. Per rispetto e onore dell'opinione di Eretz Israel, dei maestri di Eretz Israel, loro iniziano e vanno fino a ve'amartà alehem, vero? E noi facciamo uguale. Ora, sentiamola con il compromesso. Ve'keivan de'atrilinan, ma una volta che abbiamo già iniziato, per rispetto dell'opinione di Eretz Israel, perché ci ricordiamo che l'opinione babilonese era che non si inizia proprio il Vayomer, non si dice per niente. Questo era l'insegnamento che Abaye aveva portato all'inizio. Che Vayomer non iniziarlo, perché se lo inizi lo devi finire. Cioè però, lo iniziamo sì, perché? Per rispetto dell'opinione di Eretz Israel. Ma una volta l'abbiamo iniziato, migmar nami gamrinan, lo concludiamo anche, tutto. Perché? Per rispetto dell'opinione babilonese, che anche se inizi solo un po', lo devi concludere. Quindi abbiamo unito le due, e questo è un compromesso. Per rispetto di Eretz Israel, iniziamo. Però per l'opinione di Eretz Israel si potrebbe anche interrompere. Però vogliamo rispettare l'opinione nostra babilonese. Allora iniziamo. In teoria avremmo potuto non iniziare per niente. Per rispetto di Eretz Israel iniziamo. Una volta abbiamo iniziato, concludiamo come vuole l'opinione di Bavel, che bisogna concluderlo tutto e non saltare. Anche se abbiamo iniziato solo l'inizio, la parte iniziale. Ci mancava. Ecco, adesso avete capito perché la notte noi diciamo Vayomer. Questo è il segreto. quello si beveva prima di dormire. No, nell'arvit. Ah, no. Sì. Cosa ha detto prima l'alaha? La sera non si dice vayomer, non c'è la mitzvah di tzitzit. Sì. Tu apri il nostro libro di tefilah, c'è vayomer, vero? Perché? Ecco la motivazione. Però l'alaha che dice? Questa è l'alaha. Rispettare tutto il pranzo. Sì, motivo. No, come facciamo noi? Non diciamo vayomer la sera nell'arvit? Certo che lo diciamo. Da dove viene? Ecco che parte da qui. Per rispetto di Eretz Israel vogliamo iniziarlo. Per la nostra opinione babilonese non vogliamo interrompere, allora lo concludiamo tutto. E che van de atchelina, ne una volta l'abbiamo iniziata, migmar na migamrina, la concludiamo anche. Poiché la nostra opinione che abbiamo citato prima, de ha marav kahana marav, per quanto ha detto Rav Kahana a nome di Rav, lo yatchil, non si inizia il vayomer la sera, però veimitchil, se lo avesse iniziato, Gomer lo deve concludere. Quindi per mediare tra i due pareri. Diplomazia, certo. Sì. Ora. Ma invece prima di andare a dormire no. Quello di andare a dormire sono dei minaggi. Su quello ci sono diverse usanze, certo. Quello italiano, per esempio, si dice neanche, si dice solamente sì, il primo. Sì, perché quello non è lo Shema prima di andare a dormire. Ha una funzione diversa rispetto allo Shema che noi diciamo nel Shacharit o nell'Arvit. Lo Shema che noi diciamo nel Shacharit e nell'Arvit è un obbligo di leggere due volte al giorno lo Shema Beshoch Becha Uvekumecha, nel momento in cui ci si corica, nel momento in cui ci si alza. Lo Shema di andare a dormire è un'altra funzione, è una cosa legata alla protezione che noi chiediamo da Hashem nel momento in cui andiamo a dormire, eccetera. Quindi è una tefilah di tipo diverso. Non per l'obbligo di recitare lo Shema, di leggere lo Shema. Praticamente l'inizio di quando ti alzi, Baruch Adonai Shenatatali, oh, non si è mai fatto nascere, giusto? È il seguito questo. Capito? No, mi sono spiegato male. On a pas compris. Ah, ecco, dillo se non hai capito. Te l'ho detto. E quando vai a dormire, no? Sì. Tu fai quella bracha prima di dormire. Amapil chevlei shena lenai. E allora, e praticamente, quando ti alzi la mattina, che fai? Che preghiera? Modeani. Modeani she... Shechezarta bin ishmati. Esatto, questo. Ok, vero, è vero. Concludi la sera dicendo Biadchaf Kidruchi, do in mano tua la mia anima e alzi la mattina e dici Modeani, ringrazio di avergli dato l'anima. Bravo, benissimo. Io mi sono seduto vicino mica per caso. Ma, però la sera, sì, pure se c'è solo un brano, il primo, perché c'è la forma El Melech Neman? Non lo so. Sì, c'è. No, se dici tutto, sì. Boh, non lo so. Chia Barav Amar. Chia Barav disse: Amar ani Hashem Elokechem. Qualora avesse concluso il brano e detto ani Hashem Elokechem, stiamo parlando dello Shema la sera di nuovo. In origine abbiamo detto non era obbligatorio dire anche il terzo brano, però se lo ha detto, ok? Torniamo a questa questione ipotetica originale, se lo avesse detto allora deve anche dire subito Emet, Tzarich Lomar Emet, deve accostare anche la sera la parola Emet al Ani Hashem Elokechem, che è una novità, perché normalmente non dovresti dire Vayomer, allora lui ti fa l'appunto e dice sì, però se l'hai detto Vayomer, come la mattina, anche la sera devi accostare la parola Emet senza interruzioni. Mentre invece, lo amar ani Hashem Elokechem, se non avesse detto ani Hashem Elokechem, cioè non ha detto il terzo brano, questa è la novità che lui vuole dire, ascoltate bene, se non ha detto il terzo brano, e no tzarich lomar Emet, non deve dire Emet. Ora, non è solo la parola Emet, chiaramente, perché Emet è l'inizio del brano successivo. Lui sta dicendo che se non ha detto il terzo brano, non deve dire la Berachà, da Emet, Vemunà, tutto l'Emet. Ah, certo. Ah. Tutta l'intera cosa, fino a Gal Israel, la salta. Giusto. Tu dici che è giusto, però la Gemara non è così d'accordo. Il libro di Tefilà è successivo, si basa su insegnamenti che stiamo dando qui, però bisogna vedere come ci si arriva. Scusa, prima di andare avanti, sì? Adesso andiamo avanti su questo discorso. Ah, è breve. Per me sai che se servite, se lo finisce, deve dire quindi anche Met. Se il terzo brano, voglio dire. No, no, è questo che stiamo parlando. Okay, no, appunto, non abbiamo concluso questo. No, non abbiamo, stiamo andando avanti, volevo capire bene la premessa. Stiamo partendo dal fatto che se uno comunque ha finito di dire Arvit, deve accostare la parola. Tu, no, Arvit, scusa, il terzo brano. Allora, la premessa è che deve dire Met. La premessa è che non si dice Vayomer la notte, Arvit. Se però l'avesse detta, deve anche concludere subito con Emet e proseguire. Però la premessa ancora più importante è la seguente. Se non ha detto Vayomer, allora non dice neanche la beracha successiva che inizia con Emet. Vemuna kol zot fino a Gal Israel. Questo sta dicendo... Chia bar Rav, Chia il figlio di Rav. Questa è la premessa. E su questo la Gemara solleva la perplessità. Qual è la perplessità? Ve'habae le adkure yetziat Mitzrayim. Com'è possibile che non dice la bracha di Emet ve'emunah, concludendo con Gaal Israel, se invece l'obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto è valido sia di giorno che di notte? È vero che abbiamo evitato di dire Vayomer per il fatto della mitzvah dei tzitzit, però la mitzvah di ricordare Zecher Yetziat Mitzrayim, il ricordo dell'uscita dall'Egitto, quella invece va fatta. E se non si dice Vayomer, noi ricordiamo l'uscita dall'Egitto nel brano successivo, nel Emet Ve'emunah, dove si parla dell'uscita dall'Egitto, e dei miracoli, eccetera, eccetera. Allora, se non dice né Vayomer, Neve Munà, dove ricorda l'uscita dall'Egitto? Questa è la perplessità che la Gemara dice, Chia Barav, non sembra che abbia senso questa cosa. Ok? E la Gemara risponde, De Amar Hachi, intendeva dire la seguente cosa, che se la persona non ha detto Vayomer, in altre parole, nessuno può dire che non si ricorda l'uscita dall'Egitto la notte. Sicuramente Chia Barav intendeva che lo ha detto in un'altra maniera. Quale sarebbe l'altra maniera? D'Amar Hachi, lui ha detto dopo lo Shema, ha detto la seguente cosa. Modim anachnu lecha Hashem Elokeinu, noi ti ringraziamo, Signore nostro Dio, sheotzetanu meretz Mitzrayim, che ci hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, uvditanu mi bet avadim, e ci hai riscattato dalla casa di schiavitù, dal luogo di schiavitù. Vasita lanu nissim ugevurot alayam, e hai effettuato per noi delle grandi cose, dei miracoli sul mare. Vesharnulach, e noi abbiamo cantato a te nel canto del mare. E poi continua, cosa abbiamo cantato? Mi kamocha ba'elim Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. Norate ilot, che questo fa parte del canto, della cantica del mare nell'Asia Shir. E conclude con Gal Israel. Quindi, Rav Chia bar Rav non stava dicendo che salta tutta l'intera Berachah. Salta la prima parte, cioè Emet, Ve'emunah, Kol Zot, tutta questa prima parte. Poi fa una versione abbreviata in questo Modim, concludendo sempre con Michamocha e Gal Israel. Quindi non sta dicendo che si evita la Berachah, e questa Berachah appunto è riferita all'uscita dall'Egitto, così come indicata nel rito citato dalla Gemara, però non intendeva dire che si salta completamente. Comunque la cosa contrasta quanto la Gemara ha detto. Noi non l'abbiamo studiato perché è ancora alla fine del primo capitolo, noi abbiamo iniziato il secondo capitolo in questa lezione, e lì c'è scritto che non si esce d'obbligo se non si dice durante Arvit Emet Ve'emunah. Quindi questo contrasta quella opinione, però comunque non stiamo dicendo di non ricordare per niente il discorso dell'uscita dall'Egitto. Anche Chia bar Rav è d'accordo che assolutamente bisogna farlo. Quindi si esalta solo, secondo questa visione, la prima parte di una parte di Emunah. Beh, lui sta dicendo che lui ha saltato tutto Vayomer, quindi ha saltato tutto Vayomer e tutto Ve'emunah. però solo fino a Michamocha, aggiungendo la frase che parla esplicitamente dell'Egitto, e introduce la Shira, il canto di Michamocha, e conclude con Gal Israel come sempre. E poi continua con Ashkivenu, che è la seconda Berakha post Kriyat Shema nel Arvit. Ok? La cosa più importante è Yetziat Mitzrayim, non possiamo fare niente senza questo. Bravo, la cosa molto importante. Però voglio solo concludere tornando un attimino indietro a quanto ha detto Rav Yosef. Rav Yosef ha detto: sentite quanto è bella questa cosa che hanno insegnato in Eretz Israel, che Arvit si dice da bere bnei Israel v'amartale em ani Hashem Elokechem emet. Si dice solo Vayomer Hashem el Moshe lemor da bere bnei Israel v'amarta alehem ani Hashem Elokechem emet. Ok, abbiamo capito l'insegnamento, l'abbiamo analizzato, abbiamo approfondito. Perché questa introduzione così bella, drammatica? Sentite questa bella cosa che hanno detto in Eretz Israel. Cosa c'è di così particolare? Cioè, abbiamo tanti insegnamenti che ci sono giusti, che citiamo, ci sono giunti da Eretz Israel nel corso della Gemara, del Talmud che si studia. Molto spesso si dice, dicono, beh, Marava, dicono in Eretz Israel, giunse questo, giunse quello e disse così. Perché è così bella questa cosa? Allora c'è un commentatore che spiega e dice, che è molto interessante, esiste un versetto nel libro di Vayikra. Nel libro di Vayikra nella parasha di, dovrebbe essere Achare Mot, c'è scritto così: Daber el benei Israel ve'amarta alehem ani Hashem Elokechem. Un versetto intero che in realtà è questo versetto che Rav Yosef ha citato, che dicono in Eretz Israel. Vero? Daber el benei Israel ve'amarta alehem ani Hashem Elokechem. Vuol dire, non è che ha iniziato un versetto, l'ha interrotto in mezzo e l'ha ripreso in mezzo a un altro versetto. La cosa bella è che ha unito il primo verso dello Shema e l'ultimo verso dello Shema, ma insieme compongono un unico versetto. Perché è così bella? Perché in teoria è vietato interrompere un versetto in mezzo e riprendere un versetto in mezzo. Se parliamo di un pasuk, abbiamo studiato in altre fonti, nel Masechet Megillah, in altre fonti, che è vietato interrompere e creare un versetto nuovo, diciamo, da pezzi di versetti, o comunque dire recitare solo la metà di un verso, che sia la prima metà o la seconda. Qui abbiamo fatto tutti e due gli errori, in teoria, e tra virgolette, abbiamo sia interrotto un versetto dicendo solo l'inizio, cioè da bere il bene Israel ve amartalehem, e abbiamo preso un altro versetto solo dalla fine, ani Hashem Elokechem, e abbiamo aggiunto Emet, chiaramente. La cosa bella è che in realtà esiste questo versetto nella Torah. Da bere il bnei Israel va marta lehem ani Hashem Elokechem. Ecco che ha detto, questo è un bellissimo insegnamento. Un caso, ok, buona giornata a tutti.